Nel futuro, baluardo del mare, superuomo di bronzo, disteso su quel muro. Certo è un gran bel muro. Ma dovrebbe sentire che cosa è avvenuto sui monti della Grecia. È arrivato un ragazzo, va in giro per campi, pettinato chiama pace. Pace, pace per tutti, signori e signori. Ubriaco chiama pace. Pace, pace. Dicono che è venditore ambulante della resurrezione. Pensi che ha promesso al gigante che sta giù al fiume 4 mesi di cielo senza pagare niente. Se non mangia più persone, 4 mesi di grazia, se non beve più sangue delle donne e il loro cuore, delle donne e il loro amore. Ma vuole sapere che ha fatto quel tale, che di nome fa Gesù, ha rubato lo scettro di Giove, Dio padre. Ha detto non ti serve più, sono io il vero re degli uomini, sono il principe del cielo. Ora fai i tuoi bagagli e muoviti, ho un impegno molto serio. Oh oh oh, vai a te se perdo il treno. Stai attento, Signori, venghino alla grande fiera delle divinità. Ammirate il dio Nettuno che, preso da sconforto perché non più adorato da uomo alcuno, è rimasto come marmo, l'ha disteso su quel muro. E Giove padre, che dall'alto guarda incredulo la scena, non ha più neanche lo scettro, non lo può agitare nemmeno. L'ha rubato un giovanotto, l'ha rubato il Nazareno. Signori e signori, venghino, venghino. C'è più, non c'è più, non c'è più religione, vostra grazia dio Nettuno. Non c'è più, non c'è più, non c'è più educazione per i furbi del futuro. Non c'è più, non c'è più, non c'è più quel timore per il mare mio Nettuno. Non c'è più, non c'è più, non c'è più tradizione per i mostri del futuro. Per i mostri del futuro, oh, oh, oh.